Tirato il fiato di sollievo, allorché il pericolo è ormai alle spalle. I vincitori, coloro che l'hanno scampata bella, possono permettersi il lusso di straparlare anche di quel passato su cui dopo tanta fatica sono riusciti a mettere una pesantissima pietra sopra. Così se il giorno prima il presidente del Consiglio Berlusconi dice che nel nostro paese negli ultimi 10 anni c'è stata una guerra civile, il giorno dopo il presidente del Senato, Marcello Pera, la cui affidabilità di storico della scienza sarà bene non commisurare alla sua veste di storico tout court, conferma e generalizza parlando di conflitto. L'evento bellico al quale si riferiscono costoro ai più è sfuggito. Per 10 lunghi anni si sarebbe combattuto fra classe politica e magistratura, mentre gli sprovveduti come noi, distratti e poco perspicaci, poteva sembrare che si combattesse come giusto e sacrosanto concettualmente fra ladri corrotti e corruttori e magistratura. Ora invece veniamo a sapere la verità e soprattutto sappiamo chi ha vinto. Tuttavia, a sentire Berlusconi ci sono state vittime e non si riferisce a noi tutti, ma a quella che prima dell'11 settembre scorso avrebbe semplicemente definito come un'intera classe politica, quella di origine democratica. Mentre parlando dopo l'11 settembre, ha invece definito come un'intera classe politica, quella di origine democratica e occidentale. Sono tempi grami in cui i vecchi cavalli di battaglia del potere sembrano usurati. Il democratico non basta più valorizzare nell'ora del bisogno e ci vuole l'occidentale. Fa niente se le cosiddette vittime di Tangentopoli sono cadute prima di sapere di esserlo occidentali. La storia come libro è la proposta analogica di Marcello Pera. Dobbiamo considerare chiusa la pagina di questa berlusconiana guerra civile e consegnarla agli storici. Dice lui, fanno tutto loro, distribuiscono patenti di occidentalità, chiudono i libri alla pagina che vogliono, decidono anche chi non potrà e chi potrà leggerli, comunque il più tardi possibile.